della polizia, sostanzialmente all'altezza di Regina Coeli, ovviamente siamo sull'altro lato di Longotevere, quindi oltre Trastevere. A quell'altezza c'è stato un blocco, sostanzialmente è partito, comunque il corteo ha provato ad avanzare in maniera determinata, abbastanza pacifica. La polizia a quel punto ha caricato usando prima gas lacrimogeni, poi sia con gli uomini che con i mezzi, per diverse decine di metri. Questo ha prodotto sostanzialmente un arretramento del corteo anche piuttosto scomposto, che insomma si è disperso un pochino nelle vie laterali, quindi virgolette, intorno al Ministero di Grazia e Giustizia, e poi su via Reanola un pochino ha continuato a indietreggiare sul Lungotevere. Diciamo, l'ultima parte delle persone che indietreggiano sul Lungotevere sono i compagni che, come dicevi te prima, in questo momento sono fermati sul ponte di Porta Portese, mentre invece diciamo sul lato destro del Lungotevere, quindi nei vicoli interni tra Campo di Fiori, il Ghetto Ebraico e via Reanola, si è provata in qualche maniera a resistere a una carica di violenza spropositata, e per alcuni minuti si è provata a tenere il fermo della piazza. In questo momento, che risulti a me, non ci sta più nessun tipo di agglomerato umano nel centro storico di Roma. Noi stiamo cercando di raggiungere appunto questi compagni fermati a Porta Portese, cerchiamo anche di capire se invece nel resto del centro storico ci sono altri concentramenti. Va benissimo, vabbè, allora diciamo hanno tentato di fare un'opera di rastrellamento. A quanto ci risulta peraltro questa operazione sta continuando proprio adesso che noi stiamo parlando, per cui ecco, se siete un gruppo diciamo bello numeroso, sì, ci sembra il caso insomma che si vada a dare una mano, un soccorso a chi è fermato, cioè al gruppone fermato. Per il resto chi si muove insomma così, ecco, Io non mi sento più, vi ringrazio. Va bene, ciao. Ciao. A più tardi.